vento e migliaia di speranze che crollano. Senza te, senza i tuoi passi ormai lontani sul selciato di una vita che pare troppo lunga. Come morire in un pozzo di emozioni. Solo il pianto che hai asciugato potrà farti capire che la sofferenza insegna a camminare ancora nel buio. Da un colpo di pistola, le tue parole fredde, migliaia di speranze che crollano dentro una stanza piena di vuoto, camminare ancora nel del troppo silenzio che c'è in me, del troppo silenzio che c'è in me. Respirando vorrei adorare ancora, respirando vorrei adorare ancora. Come morire in un pozzo di emozioni, e solo il pianto che hai asciugato potrà farti capire che la sua